voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Quarta puntata. Donna. Un giorno a Cortina, in una grande valle nascosta tra le tofane, una donna che sciava veloce come giocando, vide nello spazio bianco, senza ombre, senza vento, un uomo fermo, solo, con un mefisto nero e gli occhi neri. Fu un attimo, continuò a scendere con salti nella neve fresca, ma tutto non era più come prima, e questo le parve strano. Arrivata in fondo alla valle, si tolse gli sci, li caricò su una jeep rossa. Anche lei era vestita di rosso e aveva capelli corti, ricci e rossi, e tornò a casa. Udì subito gli strilli dei bambini e lo squillo del telefono. Con un lievissimo tremito pensò che fosse l'uomo col mefisto. Sollevò il telefono, ma non era lui. Era una sua amica con cui parlò molto e in fretta, un po' balbettando e senza sapere bene che cosa diceva. A tavola parlò moltissimo col marito e senza sapere perché lo abbracciò due volte. Poi parlò con la governante e con i bambini, sempre alzandosi e sedendosi, prendendo ora l'uno ora l'altro dei bambini in braccio e baciandoli. Passarono alcuni giorni, il tempo si era oscurato, faceva di nuovo freddo e un mattino di neve fitta e sottile, molto strana per quel mese, la donna, vestita di un pellicciotto bianco e di una cuffia bianca di lana di pecora da cui usciva un ricciolino rosso, passò sotto il campanile con i due bambini per mano e vide l'uomo, senza mefisto, ma con il capo coperto da una vecchia cuffia di cuoio da aviatore. Era in compagnia di un uomo biondo e ricciuto, vestito di un giubbotto militare e di una donna molto bella. Tutti e tre ridevano. La donna capì dai loro denti bianchi che erano felici insieme e provò un po' gelosia e un po' invidia. In quel momento anche l'uomo la vide. Smise di ridere e la guardò in modo forte e indecifrabile, tanto che la donna non seppe staccare gli occhi da quelli di lui e per far questo fu costretta a girarsi. Tornò il sole e un vento tiepido di primavera cominciò a sciogliere la neve. La donna sciava sempre. Qualche volta pensava di rivedere l'uomo col mefisto, ma se le pareva di vederlo poi non era lui. Lo vide invece a una cena con molta gente. Glielo presentarono, lei non capì il suo nome e si trovò seduta accanto a lui. «Lei scia molto bene», disse l'uomo guardandola in quel modo indecifrabile. Gli occhi erano molto neri e il bianco bianchissimo. «Come un ragazzo», la donna disse con voce malsicura. «Non è un complimento». «E invece lo è», disse l'uomo. «Lei ha i modi del ragazzo, la pelle, perfino la voce». «Perché? Che voce ho? Si sentiva timida, forse doveva offendersi? Ha la voce un po' rauca. Le sembra bello?» L'uomo la guardò, poi disse «Bellissimo» e senza salutare scomparve. Da quel momento la donna si sentì così e cominciò a parlare senza interrompersi, ma interrompendo come fanno i ragazzi. Aveva le guance rosse, il cuore le batteva e gesticolava con le mani. Durante la notte la donna, che dormiva sempre di un sonno profondo e tranquillo, ripensò alle strane frasi dette dall'uomo. Poi pensò a lui e cercò di vedere davanti a sé nel buio il suo volto. Sopra gli occhi aveva sopracciglia molto nere e arcuate, una bocca dura e quasi senza labbra, e tuttavia c'era in lui, nel suo modo di muoversi, qualcosa di molto fragile, come di persona triste o malata. Al mattino la donna gli telefonò e disse subito: «Devo dirle due cose. La prima, se vuol venire a sciare. La seconda, che è invitato a pranzo da me questa sera. Viene?» L'uomo disse: «Sì, ragazzino». E si trovarono. Lei trasportò sci, racchette e scarponi nella macchina di lui. Poi si misero in viaggio. La donna si sentiva piena di soggezione per quella telefonata e si accucciò sul sedile guardando l'uomo di traverso quando non la guardava. Ma lui sorprese due volte quegli sguardi e sorrise. La donna, intuendo che la sua curiosità era molto chiara, lo disse: «Sa che ero molto curiosa di conoscerla?» L'uomo la guardò in silenzio per molto tempo. Le guardò la fronte, gli occhi, la bocca, le guance. Poi disse: «Io ancora di più. La sto guardando da un mese». La donna arrossì e non parlò. Finalmente disse: «E perché?» «Perché è come la vita», rispose l'uomo. Molte cose si confusero nella mente e nel cuore della donna, ma tra tutte le cose confuse riconobbe la paura. Si fermarono accanto alla funivia, ma nessuno dei due si mosse. «Cosa vuol fare?» disse l'uomo. «Vuole sciare?» La donna non aveva nessuna voglia di sciare, voleva soltanto fare molte domande all'uomo e conoscere di lui più cose possibili, ma disse: «Facciamo quello che vuole lei, scelga lei». L'uomo fece una lunga pausa con piccoli mugolii di indecisione. Sorrise. Passò ancora del tempo in silenzio, durante il quale guardò la grande discesa al sole, poi disse: «Niente sci, andiamo a colazione da qualche parte, mi dica lei dove preferisce». La donna si sentì felice e disse: «Di solito so sempre dove andare, ma oggi no, e non ho nemmeno voglia di pensarci. Decida lei, mi fa piacere se decide lei». L'uomo propose alcuni posti senza convinzione e la donna fu ancora più felice perché aveva già scelto dove andare. Disse: «Andiamo alla casetta rossa, la conosce?» «Non la conosco, ma andiamo alla casetta rossa», disse l'uomo. La donna pensò che l'uomo aveva intuito fin da prima la decisione di lei e si affrettò a dire: «Se però vuole andare da un'altra parte...» Ma l'uomo la interruppe, ridendo, disse: «No, ragazzino, si va alla casetta rossa», e le scompigliò i capelli. «Perché mi chiama ragazzino? La smetta di chiamarmi ragazzino», disse la donna. L'uomo rise e con voce molto calma e allegra ripeté: «Ragazzino, ragazzino rosso che non sta mai fermo e timido anche». La donna aveva voglia di giocare, di contraddire, di litigare. «Non sono mai stata timida in vita mia. Ho 35 anni e 2 figli e un marito». L'uomo rise: «E invece ha 13 anni, è timidissima, non ha né figli né marito». «Lei è sempre così sicuro?» «No, ma ora sì». Mangiarono alla casetta rossa, sepolta nella neve, piena di gocce e bagliori. Lei si sentiva timida, esattamente come aveva detto l'uomo. Per questo le venne una gran fame e mangiò un piatto enorme di spaghetti, una bistecca di cervo con polenta, bevette molto vino e 2 grappe. Al ritorno cantò, e quando l'uomo le carezzò una guancia con il dorso della mano, lei gli prese la mano da quel lato e strofinò le nocche sulla sua guancia. La donna tornò a casa, dormì un poco, diede ordini per la cena e si immerse nel bagno parlando da sola e cantando. Il marito la udì e le disse: «Che hai? Sei matta?» E la donna rispose: «No, tesoro, non sono matta». Uscì dal bagno e andò in guardaroba. Forse era il caso di indossare un vestito lungo. Lo provò e si trovò ridicola. Una donna sposata con 2 figli è ridicola. Provò una minigonna. Vide che le sue gambe erano belline ma non belle, e in ogni caso erano gambe di donna non alta. Non alta come la donna che aveva visto ridere in compagnia di Mefisto. Mefisto le parve un bel nome e rise tra sé pensando che glielo avrebbe detto. Poi indossò un pigiama di crepe nero e si trovò ridicolissima. Poi un paio di pantaloni di tweed con una camicetta di raso rosso e scarpette di vernice nera. Niente, niente e niente. Guardò con la coda dell'occhio un paio di pantaloni scozzesi. Capì, come fosse lui a dirglielo, cos'è il pessimo gusto e arrossì. Provò una sottana di pelle di daino con una camicetta a piccoli quadri bianchi e celesti. Non era male, ma non era bene. Si sentì stanchissima e si buttò nuda e un po' disperata sul letto. Udì il marito nel bagno che si spruzzava di profumo e non le piacque né il soffio dello spruzzatore né il profumo né che il marito si profumasse. Non le piacque nemmeno l'idea di avere un marito e due figli, e soprattutto non le piacque di avere quel marito. «Sei matta!» «Che cretino!» In quel momento qualcosa le disse di mettere la camicetta e un paio di pantaloni di cinghiale. Lo fece, si guardò allo specchio da tutti i lati, stirò due volte le labbra e le parve di essere abbastanza ragazzino. Così pensando, due lacrime molto grosse saltarono sulla camicetta a piccoli quadri celesti. Estate. Anatalia e Alessandra Ginsburg. Un giorno di ottobre, sul battello Ischia Capri, un uomo appoggiato al parapetto di prua contro il vento e il sole guardava fisso e senza pensiero il blu del mare e le spume bianche. Disse: «L'estate è finita». La gola si chiuse e non poté più parlare. Allora pensò: «Chissà dove sarà». E rivide accanto a sé su quello stesso parapetto di prua la moglie, che non vedeva più da molti anni, e come quell'estate la guardò. Aveva lunghi capelli castani raccolti a coda di cavallo ma battuti dal vento, un volto ovale, timido e selvatico da suora orientale, cortissimi shorts bianchi, una camicetta di madras scolorita, scarpe da tennis impolverate di rosso sui piedi nudi, pelle già scura, denti bianchi e forti, un po' convessi. Spesso teneva la bocca schiusa. Aveva 19 anni, non parlava quasi mai. Si muoveva e camminava in fretta con confusione e grazia. Spesso aveva fame, sete e sonno. Insieme non avevano molti soldi, anzi pochi, ma erano molto felici e molto infelici, come succede a quell'età. Litigavano moltissimo. Lui la tirava per i capelli per non farle troppo male. Certe volte la prendeva anche per il collo e stringeva o le storceva un braccio. Lei lo graffiava, soprattutto dava calci. Ma quel giorno di quell'estate erano abbastanza felici arrivando a Capri e lui avrebbe voluto dirle, vedendola così vestita: «Come sei graziosa», con vero e imparziale entusiasmo. Ma non lo disse per timidezza, per timore di essere troppo parziale e anche perché voleva fare un po' il duro. Non avendo molti soldi e anche per gentilezza, portarono da soli le valigie, vecchissime, bellissime, con etichette Goa, Singapore. Salirono con la funicolare, attraversarono la piazzetta, lei in fretta, con gli occhi bassi perché qualcuno la guardava, e arrivarono non senza fatica, ma senza pause, alla pensione Scalinatella. Nel percorso dalla piazzetta alla pensione, lei sentì il profumo delle buganville e vide il colore viola e morbido di quel fiore coprire un vecchio muro. Il piccolo naso si arricciò un poco, le annusava sempre tutto e non disse nulla. Il signor Morgano li accompagnò alla loro stanza e spalancò le finestre su una grande terrazza che guardava la Certosa e il mare. Coltissimo, il napoletano capì dei due giovani sposi tutto quanto c'era da capire: la natura selvatica ed elegante di lei, il cervello a conchiglia di lui che già conosceva, notò con occhio guizzante il cerchietto d'oro al dito di lei, ma ebbe il genio di dire: «La signorina non conosce Capri?» Lei intuì il genio del signor Morgano, le piacque molto quel nome di fata, schiuse le labbra ridendo e disse: «No». A seguito del signor Morgano arrivò un bambino vestito di bianco con un cocomero in ghiaccio. Poi scomparvero senza che nessuno li udisse scomparire. La stanza era grande, bianchissima, con soffitto a volta, lenzuola, copriletti, coperte, tutto bianco. Il pavimento era di mattonelle azzurre e su quell'azzurro freddo e lucente in terrazza c'era un tavolo bianco e due grandi chaise longue di vimini dipinte di bianco. Oltre la terrazza c'erano pini e tamerici di due verdi diversi. cupolette bianche, terrazze e giù in fondo, di là dai salti di roccia, il mare blu. Sul mare blu, un grande panfilo blu, fermo e ondulante, e dietro il panfilo un motoscafo bianco in corsa. Non uscirono subito, perché in quel momento si amavano e perché lei mangiò mezzo cocomero verde e rosso con le mani e, cosa strana, sorrise per la seconda volta. Solo dopo uscirono, percorsero tutta la strada di Tragara fino alla punta. Da lì, senza dire nulla, senza annunciare ciò che sarebbe apparso, lui scese verso i faraglioni tra i pini. Si aspettava un commento, ma lei non parlò. Arricciò ancora il naso e poi tese le narici per sentire bene l'odore di resina, ma non fece nessun commento. Come altre volte, egli invece guardò dall'alto le due rocce salire dagli abissi blu tra piccole lente spume estive, avvolte alla sommità dai grandi branchi di bianchi uccelli planipteridoi. Non gli piaceva chiamarli gabbiani né diomedei, e questo nome lo teneva per sé in omaggio all'autore, tra fortissimi stridi. Ma non seppe resistere e disse alla moglie il suo segreto. «Sai come si chiamano quegli uccelli? I gabbiani? Non so se sono gabbiani, non credo. Pare siano di un'altra specie, rara e molto antica. Io li chiamo planipteridoi». Lei cercò di spalancare i suoi occhi a mandorla. «Pla», disse e si fermò. Per concentrarsi l'occhio sinistro si fece un poco strabico, pochissimo. «Planipteridoi», disse l'uomo e la baciò su una guancia. «Planipteridoi», ripeté lei con molta attenzione, guardando dentro di sé, e per aiutarsi a dirlo prese una mano di lui e la strinse forte, quasi aggrappandosi. Scesero correndo il lungo sentiero e arrivarono ai piedi dei faraglioni. Lì entrarono in una cabina, appoggiarono maschere e pinne, si spogliarono in fretta, nudi, e si guardarono chiusi tra le vecchie assi, piene di mare e di sale. Poi si abbracciarono per un momento, tutti stretti sentirono il loro odore. Lei lo annusò tra il collo e la spalla. Infilarono i costumi e scesero verso la grande piscina naturale di mare frizzante tra i picchi. Infilarono pinne e maschere molto in fretta, si tuffarono, si guardarono sott'acqua e si presero per mano un momento, poi riemersero. Lei aveva i capelli gocciolanti e flottanti sull'acqua e ciglia gocciolanti sugli occhi a mandorla e altre gocce sul volto un po' contratto per il sale dentro gli occhi e per le brevi raffiche gentili di acqua, aria e iodio che il vento soffiava dalla stretta gola della prima roccia. Lui avrebbe voluto dirle «Come sei splendente!» perché il cuore di lei e tutto il suo carattere selvatico splendevano di una grandissima autonomia naturale e solitaria. Ma egli fu geloso di questa autonomia e della sua fortunata bellezza, e qualcosa di meschino gli fece dire soltanto «Come sei carina!» Ma lei, nella sua felice sordità e autonomia marina, non udì. Si tennero per mano e guardarono sott'acqua nelle profondità sempre più buie, piccoli branchi di saraghi. Più l'abisso sprofondava, più lei stringeva la mano di lui. Nuotando lenti e come volanti, attraversarono il bacino e toccarono con mani di madreperla le prime rocce taglienti del Monacone. Lì si arrampicarono dentro forre e cunicoli fino alla cima e tra grosse lucertole restarono al sole. Poi tornarono a inabissarsi nelle profondità marine, poi riemersero e nuotarono lentamente e raggiunsero il punto da dove erano partiti. Mangiarono sulla terrazza di legno sconnesso da Luigi, ma con tovaglia bianca e bicchieri a calice di un vetro verde e leggerissimo, che si appannò subito al vino di Ischia ghiacciato. Sentirono il sapore di zolfo di quel vino mischiarsi in bocca al sale amaro del mare e le labbra diventare più dure, come anestetizzate dal bordo gelido e sottile del bicchiere senza peso. Mangiarono cozze al pepe, lei succhiava le cozze con la piccola bocca indurita dal vino freddo, e a quel punto lui la baciò proprio su quelle labbra per sentire se era vero. Era vero, le labbra erano indurite dal vino freddo e fuori, intorno, sopra il labbro, era rimasto un po' di sale. Mangiarono una aragosta enorme. Lei masticava rapidamente, con forza, bocca chiusa. Ma sapeva? Conosceva le cose che mangiava e il momento in cui le mangiava? L'uomo, che in quegli anni intuiva soltanto, se lo chiese. No, lei non sapeva. Era troppo giovane per sapere. Aveva molta fame e basta. E subito dopo mangiò una mozzarella in carrozza. Dormirono abbracciati su un materassino, su uno scoglio, coperti da un asciugamano di ciniglia blu, con un grande delfino, un bordo giallo e una piccola iniziale. Anche lui dormì, meno, con la guancia appoggiata a quella di lei, già un po' madida. Per qualche breve istante si svegliava, sentiva i capelli umidi di lei sulla spalla. Una volta sentì che lei nel sonno gli dava due o tre bacini molto piccoli sulla guancia. Restarono fino al tramonto, si tuffarono ancora nell'acqua senza sole e si asciugarono. Poi salirono il sentiero tra i pini a passi veloci, sudando moltissimo. La notte dormirono tra le bianche lenzuola che sapevano odore di aria mattutina, tenendosi per mano come dentro il mare. La finestra era spalancata e l'uomo guardò per molto tempo la luna. Era luglio, poi venne agosto e così passò l'estate. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.